versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon mercoledì 24 appunto di giugno, 24-24, siamo in diretta qui da Milano alle 16.31 primi 28 secondi, vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it e per intervenire oggi in diretta il numero di telefono lo conoscete, ma lo ripeto, 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. L'argomento della puntata sarà il vostro rapporto con le banche e quindi raccontateci se avete percepito in questi mesi di iniziale, insomma flebile, ma comunque iniziale ripresa, qualcosa di diverso e di nuovo nel accettarvi per esempio richieste di mutui, impieghi, se avete una piccola impresa, una sensibilità diversa sulle garanzie da offrire per avere prestiti e così via. Perché? Perché l'argomento della puntata sarà dedicato a un provvedimento di cui non abbiamo il testo perché è stato approvato ieri sera in Consiglio dei Ministri, ma che può rappresentare, se davvero sarà come è descritto, uno dei più importanti provvedimenti contro la crisi e per far finire il credit crunch, cioè la diminuzione del totale degli impieghi, che è una costante in questi anni anche a fronte di una liquidità offerta alle banche dalla Banca Centrale Europea a condizioni straordinariamente favorevoli. Ecco, questo provvedimento potrebbe essere una vera svolta, la svolta più significativa, tenuto conto che il tappo agli impieghi, cioè ai prestiti da parte delle banche, è rappresentato innanzitutto oramai da questi 12 punti di PIL, 200 miliardi di crediti deteriorati che hanno in pancia e che non riescono a smaltire sul mercato a valori naturalmente nominali diversi da quelli del loro valore, perché in Italia un vero mercato dei crediti deteriorati non c'è, perché tutto il sistema bancario piccolo, cioè quello delle BCC, sono oltre 300 come sapete, ha l'ammontare di credito deteriorato molto frazionato, quindi i tagli non sono interessanti per gli specialisti internazionali, ma questo provvedimento potrebbe intervenire su un fattore, cioè quello della deducibilità fiscale, che potrebbe fare una grandissima differenza. Quindi se è ben scritto, come ce lo hanno descritto, vale la pena di parlarne da subito, perché non è giusto solo criticare, come molti di voi spesso mi fanno osservare, ma bisogna anche a volte riconoscere il merito di provvedimenti giusti che potenzialmente possono essere molto efficaci. Ecco, prima di questo e prima che vi presenti l'ospite e di ricordare che cosa ci hanno detto ieri sera all'uscita del Consiglio dei Ministri, tardi, quindi la maggior parte dei giornali non ha fatto neanche in tempo a portarlo con precisione, un solo commento su un altro avvenimento di giornata. Le agenzie hanno battuto una mezz'oretta fa la sintesi, non c'è ancora il comunicato ufficiale, della decisione assunta intanto dalla Corte Costituzionale sul problema della legittimità o meno dello stop dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, di cui ci siamo occupati ieri. La decisione della Corte Costituzionale, destinata inevitabilmente a fare di nuovo molto discutere, è sintetizzata in una frase che vi ripeto, e naturalmente ciascuno può capirla come meglio crede, e dovremo aspettare poi il comunicato che ce la spiega meglio, perché la Corte Costituzionale avrebbe deciso per l'illegittimità dello stop assunto nel 2010 su gli scatti retributivi e i rinnovi contrattuali, ma non per il passato, dice la Corte. Quindi è un'illegittimità che vale da oggi e per il futuro, ma non era evidentemente illegittima negli anni dal 2010 al 2015. Che cosa vuol dire in sintesi? Che la Corte Costituzionale, sempre che non venga smentito dal comunicato, rivira a favore di una interpretazione degli effetti economici e finanziari delle decisioni molto attenta ai saldi pubblici, e quindi non chiede allo Stato, per così dire, di risarcire i 35 miliardi almeno, questa era la stima dell'Avvocatura Generale dello Stato, che avrebbe implicato coprire i mancati aumenti per lo stop di questi 6 anni, quindi rivira a sentenza del tipo di quella di 3 mesi fa sulla Robin Tax, definita illegittima ma non da restituire a chi l'aveva pagata per 10 miliardi negli anni dal 2012 in avanti, una linea diversa da quella seguita dalla Corte con la successiva sentenza invece invece sulla perequazione delle pensioni superiore a 3 volte il minimo INPS, e questa volta di nuovo cambia linea. Vedremo il dispositivo, torneremo di sicuro a parlarne magari domani. Bisognerà vedere se a questo punto la Corte, oltre a prescrivere, come inevitabile visto l'annuncio, di tornare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, non dia anche qualche norma additiva sul fatto che c'è qualche cosa comunque da recuperare per una illegittimità che singolarmente vale per l'oggi ma non per il passato. È evidente che chiunque potrebbe dire: ma se una cosa è illegittima resta illegittima, non è che era illegittima oggi ma ieri era legittima. Però ripeto, questa è solo la sintesi del comunicato della Corte, però è un argomento molto importante, ce ne siamo occupati ieri, quindi era giusto darvene informazione. Veniamo invece al punto del decreto legge approvato ieri, di cui non abbiamo il testo. Questo decreto legge abbraccia due questioni che si riferiscono esattamente alle sofferenze bancarie, cioè a quei 200 miliardi di sofferenze lorde in pancia alle banche, che assorbendo capitale bancario impediscono alle banche di utilizzare la liquidità molto agevolmente offerta dalla BCE per tornare ad avere, a far avere il segno più agli impieghi, cioè ai prestiti. Sapete che sta rallentando mese dopo mese il tasso di rallentamento della concessione dei prestiti rispetto al pre-crisi, ma siamo ancora con il segno meno sia per le famiglie che per le imprese. Questo provvedimento abbraccia due questioni diverse. Il primo è quello di misure nel campo giudiziario per il recupero crediti. Il secondo, che è molto importante, è il passaggio di un regime di deducibilità fiscale delle perdite da crediti deteriorati, che fino al governo Letta in Italia erano spalmabili solo in 18 anni, quindi le banche faticavano molto a recuperare fiscalmente le perdite, poi passò allora a 5 anni e invece questa volta si decide di passare a 1 anno, come nella stragrande maggioranza dei paesi dell'euroarea. Naturalmente a frenare verso l'adozione di questa misura era la considerazione degli effetti sulla finanza pubblica, cioè il minor gettito che sarebbe generato dal fatto che a quel punto 12 punti di PIL, le perdite relative a quei 12 punti di PIL vanno in deduzione tutte in un anno. Allora, ieri è successo un giallo, perché il ministro Padoan a un'agenzia, la DN Cronos, ha detto il provvedimento ci sarà entro un anno, quindi molti di noi, io tra quelli, e anche il Messaggero e altri giornali, hanno capito che non era nel decreto. Altri, il Sole 24 Ore e La Stampa, hanno capito che era nel decreto, pur senza avere il testo. Stamattina ci siamo fatti dare un'interpretazione autentica, per così dire, dal MEF, che ci ha confermato le seguenti cose. Primo, no, l'abbattimento, la deduzione fiscale in un solo anno alle banche per le perdite creditoriate è nel decreto. 1. 2. Si applica al bilancio 2015, quello in corso per le banche, quindi non vale dal 2016, vale da subito. 3. Si applica non solo alle perdite in conto economico scritte nel bilancio di quest'anno sui crediti deteriorati, ma si applica, vedremo in che misura, anche allo stock delle perdite accumulate negli anni precedenti e non ancora messe in deduzione. Ripeto, dal governo Letta in avanti la deduzione era messa in 5 anni. 4. Sul punto delicato, delicatissimo, degli oneri derivanti dalla finanza pubblica, mentre sta scricchiolando l'accordo sulla Grecia, bisogna stare attenti al deficit che si crea, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ci dice, e qui sarà veramente delicatissimo leggere il testo, che il deficit non ci sarebbe, che anzi la misura sarebbe a costo zero. Perché? Perché sarebbe consentito alle banche, entro un certo tetto, di decidere loro, entro quel tetto, se mettere in deduzione subito in un anno le perdite da crediti deteriorati rispetto agli altri crediti fiscali maturati, spalmando questi ultimi in un orizzonte decennale, con la considerazione, che a quel punto secondo me sarebbe comprensibile e anche giusta, che mentre gli altri crediti fiscali danno beneficio alle banche sì, ma solo sul conto economico, quelli invece collegati alle perdite da crediti deteriorati danno un doppio beneficio, perché lo danno sia sul conto economico ovviamente dell'anno, maggiori margini o minori perdite, ma lo danno anche dal punto di vista patrimoniale, perché liberano appunto capitale che altrimenti è fermo a garanzia di quei crediti deteriorati, consentendo di liberarlo per nuovi impieghi. Ecco, questi sarebbero i quattro pilastri di questo provvedimento, e per capirne la portata, gli effetti, se davvero, come sembra, può essere uno dei più importanti tappi alla ripresa che salta, abbiamo con noi il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, che ci segue anche il sabato, è un coautore, conduttore e protagonista anche dei nostri conti della Belva. Buon pomeriggio e grazie, Carlo Alberto. Buon pomeriggio da Oscar e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che cosa hai capito tu. Il provvedimento che effetti potrebbe avere a seconda di come viene scritto su questi quattro punti? Intanto fammi dire che Padoan ha fatto l'artificiere dell'ultimo minuto, perché sta disinnescando una bomba che rischiava veramente di esplodere. E diciamo, nell'ipotesi che tutto quello che hai detto sulla interpretazione autentica fornita dal Ministero sia poi ritrovato nei testi, e devo dire che, come direbbero gli americani, it's a big if, no? Purtroppo non lo sappiamo, ma diciamo, teniamo per buona la ricostruzione che hai fatto. Devo dire che mi levo il cappello, perché se è così, finalmente vedo un provvedimento con una logica razionale e con una corretta collocazione temporale, anche se dal mio punto di vista ritardata rispetto alle altre. Quindi, da un lato, l'artificiere Padoan ha disinnescato la bomba. Questo non vuol dire che l'energia chimica potenziale di quella bomba non possa provocare altri danni, e certamente non vuol dire che quell'energia chimica diventerà energia meccanica, ovvero ripresa del credito. Le prese che ha tante variabili organizzative, culturali, se non altro lato della domanda. Ecco, bisogna poi sempre domandarlo, credo, e meritarselo, non basta voler sola. Quindi, torno al primo giudizio. Il giudizio è ben venga, buona notizia. Mettiamo mano dal punto di vista fiscale a un gap che l'Italia non meritava di avere, perché c'era una differenziazione rispetto agli altri paesi, ed è arrivata in un momento importante. Stiamo alla vigilia di un grande consolidamento bancario, sia sulle popolari che sulle banche di credito cooperativo, che sono quelle più interessate a questo percorso, perché le grandi banche italiane, e qui facciamo pure Intesa e Unicredit, tutto sommato i loro conti e le loro scelte le avevano già fatte, hanno già fatto le bad bank, hanno già fatto pulizia in buona parte, non totale, sì, sui propri proprie sofferenze, e quindi diciamo sono toccate un po' meno centralmente. Il vero problema era dare una speranza a questo processo, e quindi è importante che si sappiano molto bene i termini di questa beneficio fiscale, perché si stanno scrivendo i piani industriali delle fusioni delle grandi popolari e diciamo si stanno negoziando le condizioni del consolidamento di tutto il mondo del credito cooperativo, ed era essenziale avere i termini fiscali chiari, perché questo può far cambiare radicalmente le decisioni da prendere. Quindi questo, secondo me, è un elemento importante. Peraltro è una premessa anche a un'ipotesi che rimane a piedi, che è quella della bad bank, se vuoi poi ne parliamo. Sapendo che non ci sarà mai concesso di fare una bad bank, fammi dire, di sussidio statale alle banche, però questa è una premessa per fare una bad bank di mercato, se posso dire, che aiuti le banche piccole a liberarsi di crediti che altrimenti non avrebbero mercato, non che avrebbero un prezzo di mercato sbagliato, ma se non avrebbero nessuna domanda, perché sono così frammentati, così piccoli, così poco documentati, specialmente i crediti concessi dal mondo cooperativo, che sono basati su un modello relazionale di banking, che è difficilissimo tradurre per i grandi fondi che in Inghilterra e in America trattano questi asset. Ecco, questa cosa qua costituisce una promessa importante, perché non dimentichiamo la componente, diciamo, giudiziaria legale del recupero consente una migliore previsione dei tempi, se non altro dei tempi, no? Di recupero degli asset. Quindi sono due notizie che vanno lette insieme, che sono prodromiche per un'eventuale bad bank disegnata su queste basi. Allora, non solo di bad bank dobbiamo parlare, ma lo facciamo subito dopo i 60 secondi di interruzione sul traffico. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:46 primi e 42 secondi. Tra l'altro stiamo parlando del decreto legge in materia di sofferenze bancarie adottato ieri dal governo, una parte relativa alle procedure giudiziarie che vengono snellite per il recupero crediti, perché anche il ritardo della giustizia italiana ci metteva in una gravissima asimmetria di concorrenza rispetto agli altri paesi avanzati, e poi questa nuova disciplina della deducibilità in un solo anno delle perdite da crediti deteriorati, omologandoci anche qui agli altri paesi dell'Eurozona, prima erano 18 anni, poi scesi a 5 con il governo Letta, adesso diventa 1. Ovviamente c'è un problema di copertura, visto che è molto minor gettito. Il Ministero, come ho detto all'inizio, ci ha dato un'interpretazione per la quale questo provvedimento potrebbe essere una svolta vera. Tenete conto anche che la BCE è molto interessata, molto premuto per questo, perché noi siamo diventati, al di là della Grecia, il paese dell'euroarea con la minore efficienza di trasmissione della politica monetaria sul nostro mercato domestico, perché proprio il tappo rappresentato da quei 12 punti di PIL di crediti deteriorati non consentivano di trasferire al mercato, alle famiglie, alle imprese i termini di una politica monetaria invece molto favorevole. Cioè siamo diventati il paese che rappresenta il problema di inefficienza monetaria numero uno nell'eurozona, ripeto, Grecia esclusa. Questo tra l'altro consentirebbe al governo, perché io così l'avevo capito all'inizio, di poter contare anche su un deficit aggiuntivo riveniente dagli effetti fiscali di questo provvedimento sul quale la Commissione europea non ci dovrebbe bacchettare, perché è per definizione un provvedimento a questo punto di carattere straordinario per uscire dalla crisi. Però addirittura il Ministero dice che dovrebbe essere, vedere per credere, a saldo zero. Stiamo parlando di bad bank con il nostro ospite, il professor Carlo Alberto Cannavale Maffei, perché questo tema aleggia da anni nel dibattito pubblico italiano. Il governo Monti e il governo Letta non vollero adire a procedure simili a quelle spagnole, per orgoglio secondo me. Io continuo a pensare che fu un errore, perché era evidente in un paese bancocentrico e con scarso merito di credito che noi avremmo accumulato una montagna di credito deteriorato che ci avrebbe messo sfavorevolmente in condizioni di approfittare della ripresa. Le regole poi sono cambiate con Cipro, le regole di come si affrontano i default bancari in Europa, perché passa il principio del bail-in, cioè della compartecipazione degli obbligazionisti e anche dei risparmiatori sopra i 100.000 euro. Ed è ovvio che oggi l'Unione Europea c'ha i fucili puntati sugli aiuti di Stato. Qual è il problema degli aiuti di Stato sulla bad bank, cioè su un veicolo straordinario che rileva i crediti deteriorati alleggerendo il bilancio delle banche? E che l'aiuto di Stato, sul quale l'Unione Europea ci tiene da mesi inchiodati di trattativa del MEF, è relativo alla differenza, alla garanzia data sulla differenza tra il prezzo in cui le banche, che pure hanno svalutato quei crediti deteriorati, li mantengono scritti nei loro bilanci rispetto al prezzo eventuale di rilevamento da parte di un veicolo, perché se non fosse di mercato, ecco che a quel punto la garanzia non è più una garanzia offerta a condizione di mercato come vuole l'Unione Europea, ma diventa una garanzia di Stato, aiuto di Stato, e a quel punto l'Unione Europea ci dice di no. Qual è la possibilità, caro Alberto, di uscire dal rischio che l'Unione Europea ci dica state dando una garanzia su una differenza di prezzo che non è di mercato? Diciamo che la probabilità è purtroppo alta finché non si creano un numero di transazioni sufficienti sul mercato italiano da far prezzo, no? Cioè da dare un'indicazione di una forchetta di prezzo ragionevole con cui questi crediti deteriorati in sofferenza vengono effettivamente rilevati dal veicolo che poi li gestirà con cicli e tempi più lunghi, no? Che a questo punto sono accorciati e quindi per definizione aumentano di valore, perché aumenta l'incertezza. Quindi da un lato questo primo provvedimento aumenta strutturalmente il valore potenziale di recupero di questi crediti deteriorati lato giudiziario, ne diminuisce l'impatto sui patrimoni bancari sul lato con la parte fiscale, e quindi crea le premesse per cui una bad bank possa nascere a condizioni economicamente più interessanti. Ora, qual è il problema? Che i crediti deteriorati delle grandi banche sono già stati messi sul mercato, hanno già fatto un po' di prezzo, ma sono quelli più disciplinati, ben documentati. Certo. Il vero problema è far prezzo con il pulviscolo, come lo chiamo io, dei crediti deteriorati concessi dalle piccole banche. Lì è difficilissimo perché nessuno dei grandi operatori lo sa fare. Ora, le transazioni che stanno avvenendo lì in questi giorni, un paio sono stesse ieri, nell'altro ieri, MPS. Stanno fissando un po' di basi. Qual è il problema? Che se la copertura media dei crediti è 50%, cioè se le banche hanno svalutato il 50%, ma il 50% nominale è rimasto, e i prezzi a cui vanno saranno tra il 5 e il 10%, voi mi capite che prendersi una perdita del 40-45% del valore originale, quindi diciamo enorme in stato patrimoniale, diventa veramente pesante. E qui ci può aiutare la parte fiscale, in questo specie di trade-off, chiamiamolo così, che il Ministero sembra voler proporre alle banche, dicendo valutate voi, no? A parità di condizioni di gettito vi lascio la scelta fra diluire altre perdite operative e queste perdite che invece avrebbero un effettivo beneficio di tipo patrimoniale. qui, secondo me qui il tema si sposta a questo punto nei piani industriali delle banche e di un eventuale bad bank che collaborativamente partecipa a queste decisioni. Quindi insieme alle banche decida che cosa postare a bilancio e come scegliere questo punto di equilibrio. In questo senso era cruciale farlo adesso ed è cruciale farlo in maniera collaborativa. Quindi ci leggo dentro, e se poi ci metto dentro anche il cambio di vertice della CDP con la nomina di questa magna, mi sa che il quadro si completa. Sì, sì. E non voglio pensare male, in realtà sto pensando bene, okay, sto pensando bene. Posto che il prezzo dei crediti deteriorati che dovesse essere messo sul mercato di una bad bank, diciamo di ispirazione pubblica o comunque finanziata dalla CDP, non potrebbe essere molto diverso da quello che sta facendo il mercato oggi, ma almeno avrebbe un prezzo, cosa che oggi non ha, e quindi consentirebbe in un momento di consolidamento dei grandi gruppi bancari che si stanno formando, consentirebbe in un certo senso di fare un bando, come si dice, cioè un accordo complessivo economico patrimoniale che liberi le nuove banche che nasceranno da questo fardello e lasci alla bad bank, chiamiamola di sistema, che ricordo vuole anche Banca Italia, che è consapevole, esatto, di questo, okay? Lasci il tempo e la possibilità di gestirle in maniera corretta. In questo senso il disegno comincia a prendere forma, e però tutto si risolve nel leggere bene cosa è scritto in questo decreto, esatto, proprio in questo elemento, no? Impatto patrimoniale rispetto a impatto economico dei bilanci delle banche e quindi di riflesso anche della bad bank. Allora, noi intanto lasciamo andare il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, perché procediamo con le telefonate. Speriamo di avervi spiegato in termini non troppo tecnici che questa misura, di cui daremo un giudizio solo quando ci sarà il testo, però potenzialmente, guardate, può essere una svolta vera, profondissima, perché può rimettere nel giro di due semestri ma il credito al servizio della ripresa della crescita italiana. Finché non si risolveva il problema del credito deteriorato in pancia alle banche, era così. Speriamo che sia davvero così, noi siamo i primi a fare il tifo e naturalmente vi spiegheremo passo passo non appena avremo il testo alla mano. Grazie caro Alberto, iniziamo a vedere le vostre telefonate cominciando da Antonio, dalla provincia di Rieti. Antonio, prego. Sì, buonasera Oscar. Buonasera. Buonasera per, complimenti per la trasmissione. Dica. Allora, mi sembra un gioco a somma zero quando si parla di banche. Io sono un commercialista, lo vedo tutti i giorni. L'ultima stamattina, il fatto è che anche se le banche hanno preso questa liquidità, questi crediti non arrivano. Non arrivano, no, ma i numeri al tessuto non arriva. Le faccio, sì, un esempio pratico. Cioè, per aprire una linea di credito a società costituite, neocostituite, viene chiesto un business plan, oramai sono costruite, sono avviate, società che hanno un outlook estero, gli chiedi dopo che sono costruite un business plan, oppure quella stamattina una piccola società che lavora da anni e anni e anni, gli vanno a chiedere, non si fidano le banche, no, vanno a chiedere, certo, addirittura i flussi uniemens per vedere se paghi i contributi. Le banche non si fidano. Allora, tenete presente voi che siete in ascolto che dati Banca Italia, sul totale di queste 200 miliardi erotti, ormai la quota 200 miliardi sofferte, che sono le sofferenze lorde in pancia alle banche, il totale del credito deteriorato vede una quota dei grandi gruppi delle medie imprese che è del 75% rispetto alle piccole e piccolissime, perché uno potrebbe essere portato a ragionare sul contrario, cioè sono i piccoli e piccolissimi in difficoltà che non pagano, invece i piccoli e piccolissimi si impiccano e chiudono, purtroppo, tra l'altro si impiccano era un verbo da non usare, stamattina si è sparato Maschio, un grande industriale veneto, proprio per il problema dei debiti con il sistema bancario, abbraccio alla famiglia, e naturalmente sono sempre cose tragiche, ce ne siamo occupati tante volte prima che passasse di moda, e continuo io a vedere queste notizie come un segno profondo della crisi italiana. È un'impresa con 350 milioni di euro di fatturato, è presente in moltissimi paesi, eppure si è sparato il fondatore stamattina. Però nei dati delle sofferenze la cosa incredibile è che il più dipendono da incagli con grandi imprese e medie imprese, che significa che il merito di credito dato prima dalle banche era credito agli amici degli amici, questo è il punto vero, capite? Non dipende dal fatto che sono le imprese piccole poi che non pagano più. Allora, rapidissimo, Antonello da Sassari, che dici? Oscar, complimenti, la seguo sempre molto volentieri. Allora, io vorrei intervenire su questa cosa del bail-in che ho letto nei giorni scorsi, è passata, sì, un po' in sordina, devo dire la verità, non ha avuto il risalto che merita. In buona sostanza qua se una banca fallisse si prende dai conti correnti di sopra i 100.000 e gli obbligazionisti ci rimettono.